come fa, dimmi dimmi come fa. Dimmi come fa, dimmi dimmi come fa. Molto roba stile, dimmi dimmi come fa. Se aperta un sapore, dimmi che sapore ha. Questo è D-E-X-A. Dimmi come fa, dimmi dimmi come fa. Se aperta un valore, dimmi che valore ha. Molto roba stile, dimmi dimmi come fa. Questo è D-E-X-A. Dimmi come si fa a vivere in tranquillità. Se farsi il culo ha senso o forse lo avrà. Dimmi cosa offre questa odiosa società. O se solamente la mia visione ottica. È scontato dirlo ma non vengo ripagata. Fatico per i sogni e non vengo cagata. Faccio roba sgrezza che la gente disprezza. Sforzo a cagare testi ma soffro di stitichezza. Ma questo ha senso, è giusto che ci penso. Faccio del bene e non ho nulla in compenso. C'è tipo un'abbondanza in ogni circostanza. Subire per niente sinceramente non abbastanza. Odio chi vuole tutto e infine ce l'ha. Non ho mai chiesto nulla, la musica basta già. Mi accontento di poco nella mia visione guasta. Si gioca per la vita, noi ce la giochiamo all'asta. E dimmi come fa, dimmi dimmi come fa. Molto roba stile, dimmi dimmi come fa. Se aperta un sapore, dimmi che sapore ha. Questo è D-E-X-A. Dimmi come fa, dimmi dimmi come fa. Se aperta un valore, dimmi che valore ha. Molto roba stile, dimmi dimmi come fa. Questo è D-E-X-A. Qui è tutto sballato, il mondo è sbagliato. A 17 anni ancora non l'ho accettato. Se ci sta e dimmi come fa. Il suono melodico di una vita realistica. Non so chi vivrà, non so chi morirà. Io so solo che chi vivrà, vedrà. C'è chi mi amerà e chi mi odierà. Ma sono convinta che chi lotta vincerà. Ho mille problemi, io mille sbatti. Forse è meglio tacere e iniziare con i fatti. Allora dimmi a cosa serve faticare. Se i tuoi sforzi nessuno li sta a considerare. Io chiedo a te perché mi voglio consultare. Tu chiedi a me perché mi vuoi torturare. Tutto gira al contrario, tutto gira intorno a noi. Ho parlato troppo, ora parlare tocca a voi. Dimmi come fa, dimmi dimmi come fa. Molto roba stile, dimmi dimmi come fa. Se aperta un sapore, dimmi che sapore ha. Questo è D-E-X-A. Dimmi come fa, dimmi dimmi come fa. Se aperta un valore, dimmi che valore ha. Molto roba stile, dimmi dimmi come fa. Questo è D-E-X-A.